di occuparmene in passato per una trasmissione televisiva che è veramente, come dire, una ferita al cuore, il rapimento di animali. Ho raccolto testimonianze di persone proprio che hanno ricevuto telefonate di riscatto per riavere il proprio animale, che sappiamo a volte è importante per questioni di pet therapy, magari per gli anziani. E Stefania La Stella infatti va a ricordare che proprio molte persone, reduce di questa drammatica esperienza, hanno deciso di aprire una pagina Facebook Cani Rapiti per proprio comunicare, segnalare furti, rapimenti e nei casi più fortunati anche i ritrovamenti. Ne parleremo subito dopo aver ascoltato Bruce Springsteen. Bentrovati da Stefania La Stella al nostro consueto appuntamento. Oggi ci occupiamo di una tematica particolare, dei cani rapiti. Raramente per la restituzione di un animale viene chiesto un riscatto. E quindi il sospetto sinistro è che gli animali vengano sottratti ai propri padroni per essere venduti per scopi illeciti. Dalle lotte clandestine al mercato di carne e pelle, dalla vivisezione all'accattonaggio. E poi nasce una pagina Facebook che finalmente si occupa di questo argomento, Cani Rapiti. L'ideatrice è Maria Luisa, che è nostra gradita ospite oggi. Ben trovata Maria Luisa. Ciao. Come nasce l'idea? L'idea è sorta proprio da me, Franca, quanto Franca è riuscita con un escamotage a portare via un cane che era stato rubato a un mendicante con l'aiuto delle forze dell'ordine. Quindi nel 2013 ci fu questa idea di creare questo sito Cani Rubati, o meglio rapiti, perché non sono oggetti ma soggetti. Giusto. Che finalità ha questo sito? Il nostro obiettivo è che venga creato un database come quello esistente già per gli autoveicoli e che il numero di microchip venisse inserito appunto in questo database, quindi gestito dalle forze dell'ordine con l'eventuale specificazione di cane sparito, cane rubato e località in cui è avvenuto il fatto. Maria Luisa, per la tua esperienza di appassionata animalista, da quello che abbiamo capito, come avvengono per lo più i furti di animali? Uno dei metodi preferiti dei ladri è rubare i cani dall'auto, insieme parimenti al rubarlo mentre gira nel parco incustodito, cioè non legato. Altro tipo di furto avviene mentre il cane è in giardino, altri mentre addirittura sono al guinzaglio, ma legati fuori da un negozio, e di conseguenza si raccomandano vari accorgimenti onde evitare queste problematiche. Ci auguriamo dunque che grazie a questa pagina Facebook e all'idea originale di Maria Luisa e di Franca, che insieme a lei ha ideato la pagina, si possa finalmente sopperire a questa mancanza e quindi creare, come diceva la nostra amica, una banca dati comune alle forze dell'ordine riguardo al fenomeno. Il tutto per poter restituire i propri amati amici, cioè a quattro zampe, ai rispettivi padroni, si fa per dire, in realtà ai rispettivi proprietari e amici uomini.